sola, senza un perché. Quante volte mi hai sorriso dentro di te, lasciandomi capire che forse un motivo no non c'è, lasciandomi sentire che hai bisogno di me. Quante volte Quante volte ti ho respinta senza un perché? Quante volte ho gridato dentro di me, lasciandoti capire che forse un motivo no non c'è, lasciandoti sentire che ho bisogno di te. Quante volte ti ho sognata, quante volte l'ho nascosto dentro me, ma ora so che i sogni parlano solo di te. Quante volte